Focus Economia. Sette 06, un saluto e bentrovati da Vincenzo Miglietta. Anche oggi mercati azionari in primo piano, rivitalizzati dai verbali della Federal Reserve diffusi ieri sera e che indicano una banca centrale americana divisa nel suo board sull'ipotesi di andare ad alzare i tassi di interesse. Allora vediamo subito i listini. In questo momento FTSE MIB più 0,97%, i migliori e i peggiori proprio del FTSE MIB. Tra i migliori troviamo Mediaset, Azimut, Prismian, ST Micro Electronics, Exor. Tra i peggiori, quindi, con segno negativo, Monte dei Paschi di Siena, Popolare Milano, Banco Popolare, Mediobanca, Unicredit. Tra i più scambiati, Unicredit, Intesa San Paolo, Generali, UBI Banca. Gli altri listini europei: DAX Francoforte più 0,57%, Londra più 0,14%, Parigi più 0,33%. Wall Street in terreno positivo, spinta anche dal super indice americano dell'economia, in linea con le previsioni degli analisti. Dow Jones allora più 0,13%, Standard & Poor's 500 più 0,18%, Nasdaq più 0,26%, i cambi euro su dollaro in questo momento 1,1329. Perché tanta attenzione alle decisioni della Federal Reserve? Perché l'idea diffusa è che da qui a fine anno si sarebbe andati comunque verso un rialzo dei tassi di interesse. Il fatto che nella Fed vi siano delle divisioni fa sperare gli operatori di mercato che questo possa non accadere. Sarà questo allora il tema del nostro primo approfondimento. Parleremo quindi del delicato rapporto tra il fisco e i cittadini, un rapporto che va verso il cambiamento, come anticipato in un'intervista sul Sole 24 Ore dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Sempre più dialogo preventivo e sempre meno cartelle esattoriali. 290.000 le lettere già arrivate nelle case degli italiani, a fine anno potrebbero essere 500.000 destinatari, coloro che potrebbero aver dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione. Infine l'auto del futuro, non dalla parte del combustibile, aspetto questo che trattiamo spesso, ma da quello della guida. I maggiori colossi automobilistici accelerano infatti sulla cosiddetta guida autonoma. I primi prototipi sono già in circolazione, ma vi è ancora qualcosa di più, lo ascolteremo tra breve. Un'innovazione questa che a regime cambierà il nostro modo di intendere l'auto, con tutte le ricadute prevedibili sull'indotto, dalle assicurazioni alle compravendite. Insomma, questo è il nostro sommario. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve, in primo piano, come al solito, le materie prime. L'oro allora più 0,5% a $1,349 l'oncia, petrolio più 2% a $47,7 il barile. Alcune notizie di economia internazionale. Monsanto sta avendo colloqui con Bayer e con altri, lo afferma l'amministratore delegato di Monsanto, Grant, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'auto a guida autonoma, ne parlavamo pochi istanti fa. Allora, Uber sbarca nel mercato dell'auto senza pilota. Il servizio di trasporto privato gestito attraverso un'app introdurrà infatti, a partire dalla fine del mese, nella città statunitense di Pittsburgh, una flotta di auto a guida autonoma per i propri clienti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, precisando che le auto verranno comunque supervisionate dal controllo umano, con una persona sul posto di guida. Le auto utilizzate sono delle Volvo X C90, specificatamente modificate e dotate dotate di decine di sensori che usano telecamere, laser, radar e ricevitori GPS. Volvo e Uber hanno siglato ad inizio anno un accordo che prevedeva un investimento di $300 milioni per sviluppare un'auto totalmente autonoma che fosse pronta per andare su strada entro il 2021. Quello dell'auto senza pilota è un business in cui si sono lanciati in molti, da Google a Ford, ma nessuna società aveva ancora introdotto un servizio di car sharing a guida autonoma sul mercato. Alcuni numeri sull'economia americana che, come abbiamo visto, hanno influenzato e stanno influenzando non solo le borse europee ma anche le prime battute di Wall Street. Allora, negli Stati Uniti le richieste di sussidio di disoccupazione sono diminuite di 4.000 unità la scorsa settimana, quota 262.000 da 266.000 della settimana prima. Il dato è inferiore alla stima media di 265.000 unità. Ormai lo abbiamo capito, la Fed è spaccata sulle prossime mosse su un aumento a breve dei tassi. È quanto emerge dai verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale, in base alle quali alcuni membri erano a favore di un aumento già in luglio. Alcuni membri della Fed sono preoccupati per i rischi finanziari legati ai tassi bassi, questo sempre secondo i verbali della Fed. E quindi qual è la notizia? La Fed ha deciso di attendere nuovi dati sull'andamento dell'economia prima di decidere su un aumento dei tassi. Con la decisione di aspettare nuove indicazioni sullo stato dell'economia, resta di fatto sul tavolo la possibilità di una stretta nel 2016. Un solo aumento dei tassi di interesse fino al 2018. James Ballard, il presidente della Fed di St. Louis, ribadisce di essere a favore di una sola stretta nei prossimi due anni. Non ci sono motivi per prevedere una recessione negli Stati Uniti in base all'andamento dell'economia. Mette in evidenza Ballard, secondo il quale serve un nuovo approccio per la normalizzazione della politica monetaria. Ruota attorno ai tassi di interesse, allora cerchiamo di capirne di più. Considerati per lungo tempo come una strategia radicale o una impossibilità matematica, i tassi di interesse negativi stanno diventando uno strumento preferito da parte delle banche centrali e dei governi per stimolare le economie in cui la crescita sembra del tutto immune alle misure fiscali e monetarie tradizionali, come avviene ad esempio in Giappone. Quanto emerge da uno studio di Standard & Poor's, il cui responsabile per i mercati globali, John Kingston, sostiene che il percorso verso un contesto di tassi negativi in ogni circostanza presa in considerazione è chiaramente un segnale disperato, con una serie di potenziali danni economici derivanti da queste politiche. Tra questi, il principale è quello di creare un'economia solo di liquidità con costi più elevati per le transazioni e maggiore rischio di furti. Gli fa eco David Blitzer, una circostanza che può favorire i servizi e l'industria della protezione domestica, aggiunge l'economista, che parla anche di costo per la produttività che rendere le transazioni più difficili e costose, in pratica un modo per tirare indietro le lancette dell'orologio. Moody's e le elezioni americane. Le elezioni sono un rischio per l'economia globale, lo afferma Moody's, sottolineando che un cambio di politica negli Stati Uniti che contribuisca a indebolire l'attuale architettura del commercio globale e della sicurezza potrebbe avere un impatto dannoso sulla fiducia e sulla crescita e ci spingerebbe a rivedere le nostre stime. Ci sono diversi rischi al ribasso sulle prospettive dell'economia globale. Il più immediato è associato con le elezioni americane, questo Moody's. E Moody's quindi rivede a ribasso il PIL americano per il 2016 a più 1,7% dal più 2% stimato in precedenza, invariata più 2,3% la stima di crescita per il 2017. Secondo Moody's, la Fed tornerà ad aumentare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. Le vendite al dettaglio in Gran Bretagna sono cresciute ben oltre le attese a luglio, nel mese successivo al voto sulla Brexit, sulla spinta della sterlina debole che ha incoraggiato i turisti a spendere. Le vendite, secondo i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica, sono cresciute dell'1,4% dopo il meno 0,9% di giugno, superando nettamente le attese degli analisti che si erano fermati ad un più 0,1%. Le vendite al dettaglio, esclusi carburanti, segnano un più 1,5%. E sulla Brexit interviene anche la BCE. L'esito del referendum inglese che ha determinato la Brexit può avere conseguenze imprevedibili sull'economia mondiale, presenta nuove difficoltà per l'eurozona, ma è prematuro discutere qualsiasi possibile reazione monetaria in questa fase. È quanto scritto nei verbali della riunione della Banca Centrale Europea del 21 luglio, dove i banchieri centrali ritengono necessario più tempo per valutare le informazioni in arrivo nei prossimi mesi, anche se i rischi al ribasso sono chiaramente aumentati. La gran parte degli economisti continuano ad aspettarsi un prolungamento di 6 mesi del programma di acquisti di titoli di Stato al consiglio direttivo BCE dell'8 settembre e l'Eurotower si è detta comunque pronta ad agire se necessario. L'inflazione nell'eurozona a luglio ha continuato il suo rialzo, arrivando a più 0,2% dopo lo 0,1% di giugno, lo comunica Eurostat, che conferma così la sua stima flash di fine luglio. A luglio di un anno fa il tasso era ugualmente allo 0,2%, i tassi più bassi sono stati registrati in Croazia e Bulgaria, meno 1,1%, Slovacchia, mentre i più alti in Belgio, 2%, Svezia, più 1,1% e Malta. In Italia tasso ancora negativo a meno 0,2%. La forza lavoro nell'area euro sta invecchiando e gli effetti si fanno sentire sulla produttività. Se la quota di lavoratori tra i 55 e i 64 anni aumenta del 5%, la produttività del lavoro scende del 3%. A fare i conti è il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando che il peso dell'invecchiamento della forza lavoro non è equamente suddiviso fra i paesi dell'area euro. Gli effetti più avversi sulla produttività ricadranno sui paesi che meno se lo possono permettere, quali Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Questi paesi hanno elevati livelli di debito, dice il Fondo Monetario, e hanno bisogno di una rapida crescita della produttività per essere competitivi e ridurre la disoccupazione. Ora l'intervento del governo sulle voci che circolano attorno alla prossima manovra. Allora, il Ministero dell'Economia e delle Finanze cosa dice? Circolano in questi giorni sui media indiscrezioni sulla manovra e sui conti pubblici che il governo dovrà varare ad ottobre con la prossima legge di bilancio. Si tratta di ipotesi e cifre prive di fondamento. Infine, il Presidente del Consiglio Renzi, attraverso un tweet, scrive: cosa insegna la storia di Ryanair non solo in Abruzzo o Sardegna? Giù le tasse, scrive Renzi, e si riferisce all'investimento di ieri della compagnia aerea, $1 miliardo nei prossimi anni con 44 nuove rotte. E dice ancora Renzi: ridurre le tasse non è soltanto giusto, ma è anche un fatto di competitività, lo dimostra in queste ore proprio l'accordo con Ryanair, ma è solo uno dei tanti esempi che possiamo fare. Sin qui dunque le parole del Presidente del Consiglio Renzi. Ci fermiamo qui con le notizie in breve. Spazio ora al nostro primo approfondimento. Allora, il nostro primo approfondimento si occupa proprio della Federal Reserve, spaccata sull'aumento a breve dei tassi. L'abbiamo detto, il board è diviso sulle prossime mosse su un aumento a breve dei tassi e quanto emerge dagli attesi verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale, in base alle quali alcuni membri erano a favore di un aumento già in luglio. Alcuni membri della Fed sono preoccupati per i rischi finanziari legati ai tassi bassi. Allora, cosa vuol dire tutto ciò? Lo chiediamo al collega del Sole 24 Ore da New York, Marco Valsania. Perché queste preoccupazioni? Buonasera Marco, sui tassi ancora bassi. Buonasera a voi. Sì, la Federal Reserve, come ricordavi, si trova ad affrontare un dilemma diciamo che ha appunto provocato a questo punto anche delle tensioni interne. Dibattito sicuramente acceso, qualcuno appunto dice anche vere e proprie spaccature. Il dilemma è provocato da questo problema, cioè la Federal Reserve sicuramente nel suo insieme vorrebbe proseguire nella manovra di normalizzazione della politica monetaria, quindi di ulteriori graduali aumenti, rialzi dei tassi di interesse a fronte di un'economia che prosegue nella sua per quanto cauta ripresa. Il problema, l'interrogativo sorge di fronte proprio però a questa, alla salute di questa ripresa, alla solidità di questa ripresa, oltre che alle incognite internazionali. Alcuni in questo momento, finora diciamo la maggioranza dei suoi esponenti, ritiene che l'economia americana debba ancora fornire ulteriori prove di solidità prima di poter procedere con la nuova così mossa psicologica del nuovo rialzo. Ricordiamo che il primo e finora unico rialzo dei tassi è avvenuto ormai a dicembre scorso, poi la Fed è entrata in una fase di lunga pausa generata da una frenata prima dell'economia americana e poi dalle continue incognite anche internazionali, Brexit, il rallentamento cinese e le tensioni sui mercati. Quindi ecco, a questo punto, avvicinandosi la fine dell'anno, il dilemma diventa più urgente. La Federal Reserve si interroga a questo punto apertamente, certo, al suo interno se questo rialzo debba avvenire, forse finta da settembre, oppure se sia il caso di aspettare. Ecco Marco, per capire meglio, allora i tassi bassi consentono di iniettare in continuazione liquidità sul mercato ed è una ricetta questa che, come dicevi tu, lo ricordavi e ce lo evidenziano anche i dati recenti dell'economia americana, fanno bene all'economia. Allora perché fare poi una stretta su questi tassi? Immagino perché comunque è un'operazione che costa a livello di banca centrale. Sì, è un'operazione, diciamo, tenere troppo a lungo i tassi bassi quando l'economia risale. La preoccupazione di fondo della Fed è che questo genera squilibri, perché genera comunque una liquidità in eccesso che può poi portare a più che ad aiutare l'economia reale a gonfiare bolle speculative, a gonfiare bolle finanziarie, a gonfiare rialzi eccessivi che possono andare dai prezzi dei bond al settore immobiliare, ad altre diciamo bolle che poi esplodendo possono causare problemi anche all'economia reale, come ben sappiamo, abbiamo visto. Certo. Quindi la preoccupazione della Fed è quella di andare avanti, diciamo, di evitare questo, di generare squilibri e di riuscire a portare avanti una graduale operazione di normalizzazione che quindi rialzi i tassi senza danneggiare l'economia reale, però che ancora fatica un po' a crescere. L'idea della Banca Centrale è alla fine di arrivare, di recuperare anche una capacità di intervento futura nel caso che poi ulteriori momenti di crisi si verificano, avere poi a quel punto la possibilità di tagliare di nuovo i tassi, una possibilità che in questo momento è praticamente azzerata, come sono azzerati i tassi. Ecco Marco, tu oggi scrivi sul Sole 24 Ore che comunque, secondo gli esperti americani, la ripresa è di fatto guidata dai posti di lavoro e immobiliare. Ora, se questa ripresa, che può avere più o meno zeri percentuali, è comunque in atto negli Stati Uniti, certo andare a turbare questo processo metterebbe preoccupazione un po' a tutti e credo che la metta soprattutto ai mercati. Ecco perché abbiamo poi sedute per quanto Wall Street è in crescita dall'inizio dell'anno, ma la preoccupazione è proprio questa, che si vada a rompere forse un giocattolo. Sì, sicuramente la preoccupazione di Wall Street è questa, anche perché si trova ormai a livelli record, diciamo, ha messo a segno una catena ormai di record, quindi a livelli a multipli, a prezzi così elevati, chiaramente la preoccupazione che il giocattolo si rompa, come dici tu, aumenta proporzionalmente. È indubbio che questa sia la preoccupazione di Wall Street, anche guardando ai future, le scommesse, diciamo così, il desiderio chiaro di Wall Street che si esprime attraverso queste scommesse sul futuro dei tassi di interesse, è chiaramente per una Fed estremamente cauta. I future su Fed Fund mostrano probabilità molto basse, 12-15%, diciamo, di una stretta a settembre e comunque intorno al 50% a dicembre. Quindi ecco, la volontà, diciamo, il desiderio del mercato è sicuramente in questo momento quello che la Fed, diciamo, spinga semmai sul freno piuttosto che sull'acceleratore, ma come dicevamo prima, la Fed ha anche preoccupazioni un po' più di lungo termine, ecco, che appunto mantenere troppo bassi questi tassi oggi possa sì fare magari bene nell'immediato, alleviare nell'immediato qualche preoccupazione di Wall Street, ma possa poi generare squilibri ulteriori in futuro che poi alla fine generano maggiori danni. Certamente, Marco. 349-238-6666. Intanto una parentesi, un nostro ascoltatore ci scrive chiedendo l'andamento di Intesa San Paolo, lo accontento subito, in questo momento più 0,64%. Continuiamo a parlare di Federal Reserve con Marco Valsania da New York, collega del Sole 24 Ore. Sempre nel tuo articolo, Marco, leggo che ci sono comunque dei profeti di sventura, cioè faccio tra tutti l'esempio di Soros, che comunque scommettono su un futuro non così roseo per i listini americani. Da cosa nasce questo pessimismo da parte di questi grandi comunque operatori sull'economia americana? Ma il pessimismo nasce proprio da una lettura, diciamo così, negativa dell'outlook. Nel caso di Soros, lui non ha fatto mistero di ritenere che sia in agguato in realtà una nuova potenziale crisi finanziaria proprio legata agli squilibri, diciamo, crescenti sui mercati, nell'economia, e che appunto le incognite, diciamo, economiche di questa ripresa comunque sottotono appunto non siano in grado di sostenere questo genere di livelli del mercato azionario, in particolare, che appunto, come dicevamo, ha marciato verso nuovi record, soprattutto nell'ultima fase. Wall Street diciamo così ha messo a segno una volate olimpiche, potremmo dire, ecco. Quindi diciamo le ragioni dei profeti di sventura ci sono sicuramente. Accanto ci sono anche però dei profeti dell'ottimismo, perché c'è anche chi invece ritiene che il Dow possa essere avviato, se ci sono shock imprevisti, verso quota 20.000 e senza subire gravi crisi nel frattempo. Ecco, intanto Marco, l'abbiamo letta prima questa notizia: Moody's rivede a ribasso il PIL americano per il 2016 a più 1,7% dal più 2,0% stimato in precedenza. La Fed, quindi, abbiamo letto dai verbali che ha deciso di prendere tempo e di attendere nuovi dati sull'andamento dell'economia prima di decidere un aumento dei tassi. E secondo te, Marco, quali elementi sta attendendo la Fed? Non è che magari si fa condizionare dalla campagna elettorale? Ma la Fed, diciamo, ufficialmente dice di no, però sicuramente vorrà evitare prese di posizioni mosse, quantomeno nella seduta, quella a ridosso delle elezioni presidenziali e congressuali, cioè quella, diciamo, di inizio novembre, che è a ridosso delle elezioni dell'8 novembre. Ecco, è possibile invece che operi a settembre o a dicembre, quando appunto nell'ultimo vertice dell'anno, per decidere cercherà di divinare, di interpretare i dati economici che a questo punto arriveranno. Sicuramente la speranza è che la crescita possa darle la crescita sia, diciamo, del PIL, sia dell'occupazione e sia, diciamo, in un miglioramento dell'inflazione, ecco, le possa dare ragioni sufficientemente chiare per poter procedere in un senso o nell'altro, cioè o ragioni di forza per cui procedere con una stretta, sì, oppure ragioni di cautela se appunto il PIL e la crescita nell'insieme sarà sottotono. Ecco, ricordavi tu il downgrade adesso del PIL dell'americano. Sicuramente, ecco, il PIL è cresciuto dell'1% soltanto nel primo semestre, molto debole per gli Stati Uniti. La speranza è che cresca di oltre il 2% nella seconda metà, però ecco, quanto poi effettivamente crescerà lo dovremo vedere. Ecco, un'ultima domanda, Marco. Le elezioni americane sono un rischio per l'economia globale, lo dice sempre Moody's, sottolineando che un cambio di politica negli Stati Uniti che contribuisca a indebolire l'attuale architettura del commercio globale e della sicurezza potrebbe avere un impatto dannoso sulla fiducia e sulla crescita. Allora, quest'ultima domanda, ti chiedo gentilmente una risposta breve, al di là degli annunci, ma in effetti, qualora vinca Trump o la Clinton, non credo che ci saranno comunque scossoni rispetto alla politica economica portata avanti da Barack Obama? Sì, non nell'immediato, però chiaramente se tradizionalmente la politica estera americana e anche quella commerciale tendono a essere così, affari bipartisan, affari diciamo al centro di compromessi e di una linea di sostanziale continuità, quest'anno le incognite sono sicuramente maggiori, soprattutto grazie a Trump. Ecco, oggi Trump è in difficoltà di sondaggi, ma sicuramente le sue proposte politiche sono piuttosto molto radicali rispetto al passato, quindi un protezionismo commerciale, una distanza maggiore dagli alleati e quindi diciamo sicuramente l'incognita politica è più forte del solito e sicuramente in grado di preoccupare mercati e economia. Grazie a Marco Valsania per il tuo contributo da New York, collega Le Sole 24 ore. Noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, Vincenzo Miglietta, 17.33, parliamo ora di fisco. Prima vi ricordo il numero per i vostri sms, 349-238-6666, parliamo di fisco perché sta cambiando il rapporto tra il fisco e i cittadini. A fine anno saranno circa 500.000 lettere che l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti per segnalare anomalie nelle loro dichiarazioni. Il contribuente potrà mettersi in regola pagando sanzioni decisamente inferiori rispetto a quelle che ci sarebbero dopo l'arrivo della cartella esattoriale. Parliamo di tutto ciò con Giorgio Costa, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Giorgio. Buon pomeriggio a te, Vincenzo, e ai nostri ascoltatori. Ecco, Giorgio, sbaglio a dire che allora il fisco va verso un sempre più dialogo preventivo e sempre meno cartelle esattoriali? Questa è un po' la filosofia scelta dall'Agenzia delle Entrate. Sì, e questa ormai è una strada consolidata sulla quale il fisco si sta incamminando, la cosiddetta compliance, cioè evitare il confronto diciamo agguerrito con il contribuente per indurlo a regolarizzare posizioni eventualmente non corrette. E naturalmente in questa direzione aiuta ad andare in questa direzione sia l'incrocio con le banche dati sia la dichiarazione precompilata. Il ragionamento che fanno le entrate è molto semplice: se un sostituto d'imposta per esempio dichiara di avere versato una determinata somma e il destinatario di quella somma non presenta la dichiarazione, qualcosa non torna. E quindi arriva per esempio una lettera, le 200.000 che arriveranno a partire da ottobre avranno proprio questa caratteristica, saranno il frutto di incroci di dati che dimostrano la percezione di un reddito che il contribuente non ha dichiarato. A quel punto l'Agenzia delle Entrate dice: gentile contribuente, le lettere iniziano proprio così, ti scrivo per dirti che devi pagare e non hai pagato. Certo. Se effettivamente è vero che non ho pagato, posso mettermi in regola pagando davvero poco. Per dire, si tratta di un esborso pari a 25 euro per dichiarazione più lo 0,2% l'anno. E quindi regolarizzo la mia posizione. Il fisco incassa, il cittadino diciamo non si svena. Diversamente, se sono convinto che quella somma non debba essere dichiarata, posso presentare le mie ragioni. Questo ha l'importante effetto di non far aumentare il contenzioso e di creare effettivamente un clima di maggiore collaborazione fra gli uffici e i contribuenti. Ecco Giorgio, questo è un percorso che è stato già avviato nel 2015. Sì, è già stato avviato nel 2015. Nel 2015 in tutto arrivarono circa 500.000 lettere e ne arriveranno altrettante anche nel 2016 e altrettante anche nel 2017, quindi questo meccanismo delle lettere continuerà. Naturalmente l'esempio che ho fatto prima è solo uno, ma arriveranno lettere anche per i redditi non dichiarati, per esempio nel 2012, lettere sugli studi di settore, per esempio un artigiano che non rispetta lo studio di settore si vedrà arrivare la lettera, e arriveranno lettere anche per verifiche sul campo effettuate dagli uffici, quindi diciamo che non è solo frutto di incrocio di banche dati, ma anche diciamo da altre fonti di informazioni, tenendo presente che c'è un contratto, c'è una convenzione, si chiama, fra l'agenzia e il Ministero dell'Economia, per cui ogni anno l'agenzia deve scoprire 15 miliardi di evasione, deve fare 700.000 controlli formali e deve avere un gettito medio di 16.000 euro per ogni accertamento eseguito nei confronti delle imprese di medie e grandi dimensioni. Quindi si capisce che, come dire, il denaro va recuperato e i controlli si fanno più serrati. Del resto va anche ricordato che i controlli sono anche più mirati, tanto che l'Agenzia delle Entrate vince nel 75% dei casi il confronto con il contribuente. Ecco Giorgio, ricordo l'intervista del direttore dell'agenzia Rossella Orlandi, diverse interviste, la stessa Orlandi ha sempre detto ci concentreremo nel futuro non tanto sul piccolo evasore, ma faceva intendere su cifre anche più grandi, è una tendenza questa che sussiste anche per il 2016? Sussiste assolutamente, continua, proprio perché anche qui è un banale ragionamento costo-beneficio, cioè impiegare tempo di controllo uomo per un incasso modesto ha poco senso, quindi conviene concentrarsi, diciamo, sugli importi di maggior rilievo. Infatti ogni sei mesi escono i dati con 7-8.000 evasori totali ritrovati, cioè conviene puntare sul pesce grosso rispetto al pesce piccolo. Ciò però non significa che anche il pesce piccolo non entra nella rete, perché con questo meccanismo dei controlli incrociati non sfuggono neanche 100 euro e quindi che tra l'altro non costano nulla perché sono completamente informatizzati, diciamo. Certo. La linea è quella di impiegare il tempo uomo sui controlli, o donna ovviamente, il tempo comunque umano sui controlli di maggior rilievo e di maggiore portata economica. Ecco Giorgio, allora queste lettere non sono quindi cartelle esattoriali, lo abbiamo ripetute più volte, quindi non ci sono sanzioni, interessi, possono essere lette con tutta tranquillità e poi si può o concordare con il fisco oppure fare le proprie osservazioni. Sì, le proprie osservazioni, certo comunque che bisogna rispondere, perché altrimenti il contenuto della lettera si trasforma in cartella e dopodiché effettivamente diventano somme da pagare anche più alte. Devo dire che il meccanismo sanzionatorio però nei confronti del fisco, cioè che il fisco attua e diciamo i costi che fa pagare per il ritardo nei pagamenti, è diventato conveniente, tanto che in periodi di crisi non sono poche le imprese, i professionisti, le piccole e medie imprese che diciamo approfittano della rateazione fiscale, del ritardo conseguito dal fisco, perché costa meno prendere i soldi a prestito dal fisco rispetto che alle banche. Naturalmente non è una tendenza da incoraggiare, ma sono i numeri, sono i tassi di interesse a dirlo, quindi è un fenomeno relativamente recente ma comunque in crescita, per cui anche diciamo il rallentamento dei pagamenti viene anche un po' incentivato con tassi di interesse bassi. Resta comunque, come dire, tutta l'utilità del fisco di incassare, e quindi è meglio avere tassi di interesse basso che non avere nulla. Indubbiamente. Sempre la Orlandi dice indagini e redditometro solo se necessari, questo lo dice la Orlandi, e poi per tutto il mondo delle piccole imprese, i famosi studi di settore che tanto sono stati contestati perché vanno anche in base ad anni, a stagionalità, ci sono delle novità e gli accertamenti su questo mondo come vengono attuati? La novità sta nel fatto che l'Agenzia delle Entrate, dopo le polemiche dello scorso anno sul redditometro, cioè sulla presunzione del reddito derivante da determinati indicatori, certo, come dire, utilizza questo strumento proprio in casi assolutamente eclatanti, non lo utilizza più nei casi marginali, si affida molto di più a strumenti quali sono appunto l'incrocio dei dati e anche gli studi di settore, che occorre ribadirlo, sono ogni anno tarati e aggiornati anche in relazione alla crisi. Certo, un barbiere a 20 miglia non può guadagnare come un barbiere a Crotone, però diciamo il ragionamento sostanzialmente è accettato dalle categorie e sostanzialmente funziona. Anche lì, altrimenti occorrerebbe andare a verificare la posizione di ciascun singolo, diciamo, contribuente. perché il dato di fondo resta comunque sempre un tasso di evasione che in Italia sfiora i 100 miliardi l'anno. Quindi o si cerca di contrastare l'evasione facendo pagare a tutti qualcosa, oppure occorrerebbe andare a controllare ciascuno porta a porta. Ma cosa che è molto più costosa e difficile, indubbiamente. Però è proprio su questo aspetto che dicevi, Giorgio Costa, collega del Sole 24 Ore, stiamo parlando di fisco, i grandi evasori logicamente non ricevono la letterina, soprattutto quelli che sono sconosciuti al fisco. Verso questi qual è l'azione dell'agenzia delle entrate, Giorgio? Su questi ovviamente interviene in prima battuta la Guardia di Finanza o gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, qui è la polemica dei troppi controlli, ma comunque intervengono uno dei due e verificano posizione ogni anno, si scoprono soggetti che hanno anche parecchi milioni di euro di ricavi completamente occultati. Ecco, in questo caso l'azione mi pare che si stia ulteriormente intensificando da una parte, così come però si sta intensificando dall'altra parte l'azione di compliance, cioè di accordo con le imprese. Soprattutto le grandi imprese possono usufruire di canali privilegiati, diciamo così, di contrattazioni con il fisco, contrattazioni che non significa una tassazione su misura, ma che significa certezza che il comportamento posto in essere ha un determinato costo fiscale, e questo è molto importante anche per la competitività delle imprese. Non è tanto solo un fatto, diciamo, di entità della tassazione, che pure rileva. Cioè, come abbiamo visto proprio oggi, Ryanair ricomincia a volare, aumenta i propri voli proprio perché le tasse diminuiscono, e abbiamo visto l'impatto della manovra Monti sui porti, quando tutte le barche, gran parte delle barche se ne andarono dall'Italia, quindi ci siamo perfettamente resi conto dell'impatto della tassazione, altro che far piangere i ricchi, qui si faceva piangere i poveri, portando via per esempio le barche dai porti, per esempio chi faceva manutenzione, chi gestiva strutture, e lo stesso vale per gli aerei. Quindi diciamo che ormai questo tipo di consapevolezza c'è. Pugno molto, molto duro e controlli serrati sui grandi evasori. Bene. Che non sono le grandi imprese, spesso sono piccoli soggetti, spesso persone fisiche che magari hanno, come è capitato ad ultimo, 250 appartamenti affittati. Addirittura, certo. Sono assolutamente ignoti. Va bene, grazie a Giorgio Costa, collega grazie del Sole 24 Ore. Noi passiamo alla giornata in borsa. Giornata in borsa che commentiamo insieme al collega di Radio Cori, il Sole 24 Ore, Paolo Paronetto. Buon pomeriggio, Paolo. Paolo, sei con noi? Sì, ci sono. Perfetto, Paolo, buon pomeriggio. Giornata in borsa insieme a te, collega del Sole di Radio Corre Sole 24 Ore. Partiamo allora, Paolo, dal FTSE MIB più 0,88%. Oggi mi sembra un andamento abbastanza positivo guardando tutte le varie borse. Sì, oggi dopo due giornate in calo gli listini europei hanno chiuso bene, grazie soprattutto a un allungo sul finale. Nell'ultima ora di contrattazioni le borse hanno accelerato e proprio Milano ha fatto segnare la migliore prestazione del vecchio continente, chiudendo appunto in rialzo dello 0,88%. A trainare in rialzo i listini in tutta Europa è stato soprattutto il settore energetico, grazie a un petrolio in deciso rialzo. Il WTI è risalito sopra i $48 al barile e il Brent sopra i $50 al barile. In entrambi i casi si tratta dei massimi dall'inizio di luglio, dopo il calo delle scorte americane e sulla speranza di un'intesa a settembre tra i paesi produttori per limitare i livelli di produzione. Un segnale comunque di fiducia sulla possibile tenuta della domanda di petrolio e quindi sull'andamento dell'economia, di cui ha beneficiato tutto il settore industriale in borsa oggi. Ecco, Paolo, leggo insieme a te un'agenzia, la Procura di Siena ha aperto un fascicolo, ha indagato per falso in bilancio e manipolazioni di mercato l'ex presidente di Banca MPS Alessandro Profumo e la di Fabrizio Viola. Il fascicolo però è già stato inviato alla Procura di Milano per competenza. La notizia viene confermata da ambienti vicini alla banca, dove si sottolinea si tratta di un atto dovuto in riferimento all'esposto che uno dei soci avrebbe presentato alla Procura senese dopo l'ultima assemblea dello scorso aprile. Sin qui dunque una notizia molto importante relativa a Monte dei Paschi di Siena. Paolo, resta con noi diamo spazio al traffico e poi riprendiamo con la giornata in borsa. Focus Economia. nuovo insieme Focus Economia. Stiamo analizzando la giornata in borsa grazie anche al contributo di Paolo Paronetto, collega di Radio Corriere Il Sole 24 Ore. Paolo, stavamo parlando quindi dell'andamento delle varie borse e anche delle materie prime, bene il petrolio. Ora concentrandoci su Piazza Affari, su Milano, tiene molto bene Mediaset. Sì, Mediaset è la migliore di giornata fin dalle prime battute, ha chiuso in rialzo del 4,94%, il titolo beneficia della prospettiva riportata dal Sole 24 Ore che i francesi di Vivendi possano presentare a breve una nuova proposta per risolvere il caso della Pay TV Premium di cui Mediaset aveva ufficializzato la vendita proprio a Vivendi con un accordo firmato nei mesi scorsi. Poi di recente, alla fine di luglio, Vivendi ha messo in dubbio quell'accordo a causa di diverse interpretazioni della possibilità di Premium di raggiungere gli obiettivi del piano industriale, chiedendo una rivisitazione profonda proprio di quell'intesa. Mediaset ha respinto la proposta e adesso, secondo appunto questa indiscrezione del Sole 24 Ore, potrebbe esserci una nuova proposta per cercare di risolvere la grana che si è creata. Certo. Tra gli altri titoli ti segnalavo solo, tu hai citato prima MPS, sì. Proprio per questa novità sul fronte giudiziario, il titolo rimane naturalmente sotto i riflettori sia per queste vicende sia per le questioni più propriamente finanziarie, sono in attesa novità sul fronte del piano industriale che deve essere presentato a breve e che è parte integrante del rilancio della banca, che prevede anche un maxi aumento di capitale da 5 miliardi, in attesa di novità e di capire bene la fattibilità e i rischi di questo piano. Il mercato oggi ha preferito continuare a vendere e si è alleggerito. MPS ha perso il 2%. Quindi il mercato si è alleggerito di MPS, ma anche vedo degli altri bancari. Invece positiva RCS, in attesa di novità da parte del piano Cairo. Sì, per quanto riguarda le banche, in avvio avevano tentato un rimbalzo dopo i recenti cali, il rimbalzo fallito, i titoli sono scesi, alla fine hanno recuperato insieme a tutto il listino, ma comunque sono in coda al FTSE MIB. Per quanto riguarda RCS, sì, si tratta della seconda seduta in deciso rialzo, oggi più 2,22%, sempre appunto in attesa di novità su quali saranno le strategie del nuovo azionista di riferimento Urbano Cairo e della possibile integrazione di RCS con Cairo Communication, la società editoriale proprio di Cairo. E chiudiamo con Luxottica, positiva dopo un buon giudizio di Credit Suisse. Sì, Luxottica è andata bene oggi, ha chiuso in rialzo del 2,18%, Credit Suisse ha confermato il giudizio positivo, fiduciosa sulle possibilità di crescita, di sviluppo del business nei prossimi mesi, e anche altri analisti hanno commentato positivamente le possibilità del gruppo. Sottolineiamo comunque che quasi nel FTSE MIB 33 titoli su 40 sono positivi, quindi comunque la giornata è stata positiva per l'intero listino. Grazie a Paolo Paronetto, collega di Radio Corriere Il Sole 24 Ore. Chiudiamo questo spazio della giornata in borsa ricordando: investire con il sole, i consigli e le cautele da compiere con gli indici americani ai massimi. Dopo 2 anni di pesanti ribassi, l'oro, il petrolio e molte altre materie prime hanno iniziato il 2016 con un forte ritmo. I prezzi che erano crollati ai minimi pluriennali hanno messo a segno un recupero spettacolare in parte inatteso. Anche gli investimenti sono ripartiti. Con l'arrivo dell'estate la corsa è però rallentata e sta aumentando l'incertezza. In che direzione andranno i prezzi nei prossimi mesi? Nella pagina allora Investire con il Sole in edicola domani, venerdì 19 agosto, i consigli e le cautele sulle scelte da compiere quando si vuole investire in materie prime. Chiudiamo qui la pagina dedicata alla borsa e andiamo al nostro ultimo approfondimento. Nostro ultimo approfondimento che condividiamo, e lo ringrazio, con il collega Enrico Pagliarini di Radio 24, ma anche conduttore di 2024. Buon pomeriggio Enrico. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Enrico, allora, una notizia che abbiamo dato nelle nostre notizie in breve: Uber che sbarca nel mercato dell'auto senza pilota, grazie anche ad un accordo con Volvo, Ford e la BMW che si sfidano con l'auto senza pilota. Insomma, parliamo di qualcosa che non è più proprio fantascienza. No, anzi, potremmo dire che è qualcosa che già esiste, perché vorrei partire dall'oggi. Allora, oggi, se tu, Vincenzo, volessi andare in concessionario e chiedere un'auto a guida autonoma, beh, probabilmente il concessionario non te la venderebbe con questa etichetta, però oggi ci sono automobili in commercio, anche di fascia media, non solo modelli di fascia alta, che hanno tutta una serie di sensori a bordo che ti permettono di mantenere la velocità, la distanza dal veicolo che precede, frenare, mantenere la carreggiata, curvare, perché ci sono sensori che mantengono la carreggiata controllando le strisce che ci sono, certo, sulla strada. E già oggi quindi ci sono dei veicoli che sono quasi automatici. Allora, oggi le tecnologie, ma soprattutto le regole e le leggi obbligano a mantenere le mani sul volante, sul volante. Il controllo deve essere affidato al pilota. Allora, con l'etichetta di auto guida autonoma, molto probabilmente cominceremo a vedere delle automobili a partire dal 2020-2021-2022. Questo è la fascia di anni in cui quasi che non tutti... è molto, Enrico, comunque parliamo di 5 anni. Assolutamente, cioè, siamo molto molto vicini. La tecnologia è, dicono i tecnici, praticamente già pronta. Parlando recentemente con una persona che si occupa di auto a guida autonoma, mi diceva: abbiamo ancora qualche problema nelle rotonde, abbiamo ancora qualche problema se arriva un ostacolo all'improvviso, ma direi che bisogna mettere a posto veramente dei dettagli. La tecnologia esiste, il problema più grosso, direi, i problemi sono due. Beh, ci potremmo aggiungere anche quello culturale, che non è un problema da poco, sì, però, sì. Però i problemi sostanzialmente, se parliamo di tecnica, sono due. Allora, il primo sono le leggi, quindi costruire leggi tali per cui si possano mettere sulla strada veicoli di questo genere. Oggi non è possibile, tant'è che negli Stati Uniti è nata recentemente un'associazione di produttori di auto e anche di soggetti nuovi, tipo Uber, tipo Google, che non sono sicuramente soggetti che identifichiamo con il mondo delle automobili, almeno fino a qualche anno fa non lo facevamo, hanno creato una coalizione per fare lobbying e spingere il governo degli Stati Uniti a creare leggi adeguate. L'altro problema è un problema di responsabilità e quindi un problema assicurativo. Ecco, questo è un aspetto interessantissimo, cioè tutte le ricadute sul mondo assicurativo. Di chi è colpa? Di chi è la colpa, cioè, certo, del computer, esatto, a sua volta. Oddio, certo. Ci sono i fanatici della tecnologia che dicono saranno episodi rari perché le macchine sono talmente precise che gli incidenti saranno veramente pochi, però anche le macchine sbagliano e soprattutto sbagliano perché ci sarà anche da gestire l'interregno, cioè se domattina mettessimo sulle strade solo veicoli autonomi, beh, probabilmente gli incidenti sarebbero veramente vicini allo zero. Ci saranno molti anni in cui dovremo gestire questo interregno con automobili guidate da umani e automobili non guidate da quindi umani. Quindi un mondo ibrido che non mette proprio tanta tranquillità. Esatto. Alcuni ascoltatori ci scrivono ricordando, lo ricorderai sicuramente, Enrico, l'incidente di qualche settimana fa della Tesla, se non sbaglio, oppure anche di Google, i suoi problemi. Sì, allora, i problemi ci sono ancora. Devo anche dire che questi incidenti sono dovuti alla scarsa attenzione delle persone che si affidano ad automobili che in realtà non sono oggi ancora completamente autonome. Fanno quasi tutto, però l'automobile ti avvisa e ti dice: guarda che il controllo lo devi avere tu, caro pilota, e quindi non bisogna esagerare in questa fase. Però direi che dal punto di vista tecnologico non c'è nessun problema, le auto sono pronte. Oggi dicevo, i veicoli sono di fatto quasi pronti per la guida autonoma, ma c'è questo problema di leggi e di responsabilità tali per cui tutti questi veicoli ti avvisano e ti dicono: guarda che devi tenere le mani sul volante, tant'è che alcuni di questi modelli, se tu non metti le mani sul volante, si fermano. Perché? Certamente. Perché dicono che oppure pensano che tu sia svenuto. Però che comunque questo sia il futuro lo dimostra il fatto, Enrico, che veramente i grandi player del mercato dell'auto stanno investendo, sì, sì, sì, in questo. Volvo, Ford, non so se anche la Fiat operando allora in tal senso. Sì, allora Fiat ha annunciato un accordo per una sperimentazione con una serie di veicoli negli Stati Uniti con la tecnologia di Uber. C'è chi dice che Fiat è un po' più indietro rispetto ad altri produttori, però direi che quasi tutti i produttori di automobili stanno investendo tecnologie. Anche se per Fiat si era parlato anche di un accordo con Google, Enrico Pagliarini. Sì, sì, sì, è stato annunciato questo accordo con Google per, forse non ho detto Google poco fa, per sperimentare questa tecnologia negli Stati Uniti, anche perché diciamo che Oggi costruire un'automobile lo si fa assieme ad altre società che costruiscono altri pezzi. Succederà così anche con l'auto a guida autonoma, cioè si compreranno tecnologie per metterle a bordo del proprio veicolo che verranno sviluppate da terze parti. Google è uno di questi player, Bosch, Magneti Marelli, ci sono tantissime società che stanno studiando sistemi e che quindi poi uno andrà ad acquistare. Su questo non c'è dubbio, questo è diciamo che ci sono due megatrend nel mondo dell'automobile. Uno è la guida, probabilmente molto più vicina se pensiamo al mercato di massa, cioè uno è la propulsione elettrica, certo. E l'altro è la guida autonoma. La guida autonoma. Enrico, abbiamo 30 secondi, quindi possiamo dire che se un tempo si guardava ai motori, ai pistoni, ai centimetri cubici, ora si guarda più ai software, ecco perché anche sì. Samsung recentemente si è interessata a Magneti Marelli. Esattamente. Potrei chiudere con una frase che ha citato Elon Musk, che ha detto: nel futuro sarà illegale guidare. Benissimo, grazie Enrico Pagliarini, tutti, collega di Radio 24. Un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma. Ad Alessandro Chiappini e Andrea Roccabella in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, la passione si sente.